Il terzo anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Sandro Lombardi legge Il giardino dei Finzi Contini, di Giorgio Bassani. Una volta, nel giugno del 29, il medesimo giorno in cui nell'atrio del Guarini erano stati esposti i risultati degli esami di licenza ginnasiale, era accaduto qualcosa di preciso. Il mio esame aveva lasciato molto a desiderare, e lo sapevo. Sebbene il professor Meldolesi si fosse adoperato alacremente in mio favore, ottenendo addirittura contro ogni regola di essere lui a interrogarmi, ciò nonostante il temuto ponte dell'asino non mi aveva trovato per niente all'altezza dei numerosi 7 e 8 che costellavano la mia pagella. Nelle stesse materie letterarie avrei dovuto fare di gran lunga meglio. Interrogato in latino sulla consecutio temporum, ero inciampato in un periodo ipotetico di terzo tipo, ossia della irrealtà. Altrettanto stentatamente avevo risposto in greco su un passo dell'anabasi. Certo, sì, mi ero rifatto poi con l'italiano, la storia e la geografia. In italiano, per esempio, me l'ero cavata benissimo sia sui promessi sposi sia sulle ricordanze. Inoltre, avevo detto a memoria le prime 3 ottave dell'Orlando Furioso senza sbagliarne una parola. E Meldolesi, pronto a premiarmi con un bravo così squillante da far sorridere non solamente il resto della commissione, ma anche me. Nel complesso, però, ripeto, nemmeno nel gruppo lettere il mio comportamento era risultato pari alla reputazione di cui godevo. Il grosso fiasco, comunque, l'avevo combinato in matematica. Fino dall'anno precedente, in quarta ginnasiale, l'algebra non era voluta entrarmi in testa. Con la professoressa Fabiani, inoltre, mi ero sempre condotto abbastanza vilmente. Studiavo il minimo necessario per strappare il 6, e neppure quel minimo, molto spesso, calcolando sull'appoggio immancabile che agli scrutini finali avrei avuto dal professor Meldolesi. Che importanza poteva avere la matematica per uno che, come me, aveva dichiarato più volte che all'università si sarebbe iscritto a lettere? Continuavo a dirmi anche quella mattina, mentre risalivo in bicicletta a Corso Giovecca, diretto al Guarini. Tanto in algebra quanto in geometria non avevo quasi aperto bocca, purtroppo. Ma con questo? La povera Fabiani, che mai aveva osato, durante gli ultimi 2 anni, darmi meno di 6, in sede di consiglio dei professori, non l'avrebbe mai fatto. Ed evitavo perfino di pronunciarlo mentalmente, il verbo bocciare. Tanto l'idea della bocciatura, col conseguente strascico di tediose e avvilenti lezioni private a cui mi sarei dovuto sottoporre a riccione per tutto il corso dell'estate, mi sembrava assurda se riferita a me. Io, proprio io, che non avevo subito l'umiliazione del rinvio a ottobre nemmeno una volta, e anzi, in prima, seconda e terza ginnasio, mi ero fregiato, per profitto e buona condotta, dell'ambito titolo di guardia d'onore ai monumenti dei caduti e ai parchi della rimembranza, io, bocciato, ridotto alla mediocrità, confuso nella massa, insomma. E il papà? Se per ipotesi la Fabiani mi avesse rimandato a ottobre, insegnava matematica anche al liceo, per questo mi aveva interrogato lei, era nel suo diritto. Dove l'avrei trovato il coraggio, di lì a qualche ora, di tornare a casa, sedermi a tavola davanti al papà e mettermi a mangiare? Forse lui mi avrebbe picchiato, e sarebbe stato meglio, dopo tutto. Qualunque punizione sarebbe stata preferibile al rimprovero che mi fosse venuto dai suoi terribili, muti occhi celesti. Entrai nell'atrio del Guarini. Un gruppo di ragazzi, tra i quali notai subito vari compagni, sostava tranquillo dinanzi alla tabella delle medie. Appoggiai la bicicletta al muro, di fianco al portone d'ingresso, e mi avvicinai tremante. Nessuno aveva mostrato di accorgersi del mio arrivo. Guardai da dietro una siepe di spalle ostinatamente voltate. La vista mi si annebbiò. Guardai di nuovo. E il 5 rosso, unico numero in inchiostro rosso d'una lunga filza di numeri in inchiostro nero, mi si impresse nell'anima con la violenza e il bruciore di un marchio infuocato. «Beh, cos'hai?» mi chiese Sergio Pavani dandomi un colpetto gentile sulla schiena. «Non farai mica una tragedia per un 5 in matematica? Guarda me!» e rise, latino e greco. «Su, coraggio!» aggiunse Otello Forti. «Ho una materia anche io, Inglese? Lo fissai, inebetito. Eravamo stati compagni di classe e di banco dalla prima elementare, abituati fin da allora a studiare assieme, un giorno a casa dell'uno e un giorno a casa dell'altro, e convinti ambedue della mia superiorità. Non passava anno che io non fossi promosso a giugno, mentre lui, Otello, doveva sempre riparare qualche materia, ora inglese, ora latino, ora matematica, ora italiano. E adesso, di colpo, sentirmi paragonare a un Otello forte, e proprio da lui, per giunta, trovarmi sbalzato d'un tratto al suo livello. Quello che feci e pensai nelle 4 o 5 ore seguenti non vale la pena di raccontarlo per esteso, a cominciare dall'effetto che ebbe su di me, uscendo dal Guarini, l'incontro col professor Meldolesi. Sorrideva lui, senza cappello e cravatta, con il colletto della camicia a righe rovesciato indietro, alla Robespierre, e svelto a darmi conferma, seppur ce ne fosse stato bisogno, della impuntatura della Fabiani nei miei confronti, del suo rifiuto categorico a chiudere un occhio una sola volta di più, per continuare con la descrizione del lungo, disperato vagabondaggio senza meta a cui mi abbandonai subito dopo aver ricevuto dallo stesso professor Meldolesi un buffetto sulla guancia a titolo di commiato e di incoraggiamento. Basti dire che verso le 2 del pomeriggio mi aggiravo ancora in bicicletta lungo la Mura degli Angeli, dalle parti di Corso Ercole I d'Este. A casa non avevo nemmeno telefonato. Il volto rigato di lacrime, col cuore traboccante di una immensa pietà per me stesso, pedalavo senza quasi sapere dove ero e meditando confusi progetti suicidi. Mi fermai sotto un albero. Uno di quegli antichi alberi, tigli, olmi, platani, castagni, che di lì a una dozzina d'anni, nel gelido inverno di Stalingrado, sarebbero stati sacrificati per farne legna da stufe, ma che nel 29 levavano ancora ben alti al di sopra dei bastioni cittadini i loro grandi ombrelli di foglie. Deserto assoluto intorno. Il viottolo di terra battuta che, come un sonnambulo, avevo percorso fin lì da Porta San Giovanni, proseguiva serpeggiando fra i tronchi secolari verso Porta San Benedetto e la stazione ferroviaria. Mi sdraiai nell'erba, bocconi accanto alla bicicletta, col viso che mi scottava nascosto nella piega del gomito. Aria calda e ventilata attorno al corpo disteso, desiderio esclusivo di star così, a occhi chiusi. Nel coro narcotizzante delle cicale, soltanto qualche suono spiccava isolato. Un grido di gallo proveniente dagli orti dei dintorni, uno sbattere di panni prodotto forse da una lavandaia attardatasi a fare il bucato nell'acqua verdastra del canale Panfilio, e infine, vicinissimo, a pochi centimetri dall'orecchio, il ticchettio via via più lento della ruota posteriore della bicicletta, ancora in cerca del punto di immobilità. A quell'ora, certo, pensavo, a casa mia avevano già saputo, da Otello Forti probabilmente. Si erano seduti a tavola? Sì, magari facendo finta di niente. Poi avevano dovuto interrompere di mangiare. Non erano riusciti a tirare avanti. Forse mi stavano cercando. Forse avevano sguinzagliato in giro Otello stesso, l'amico buono, l'amico inseparabile, dandogli l'incarico di perlustrare in bicicletta l'intera città, montagnone e mura compresi, sicché non era impossibile che, di punto in bianco, me lo vedessi comparire davanti con una faccia rattristata di circostanza. Però, più che felice, lui, me ne sarei accorto benissimo di essere stato rimandato soltanto in inglese. Ma no, forse, sopraffatti dall'angoscia, i miei genitori non si erano accontentati del solo Otello. Erano arrivati a mettere in moto persino la questura. C'era andato mio padre a parlare col questore in castello. Mi pareva di vederlo, balbettante, disfatto, invecchiato paurosamente, l'ombra di se stesso. Piangeva. Ma se 2 ore prima, a Ponte Lagoscuro, avesse avuto modo di osservarmi mentre fissavo la corrente del Po dall'alto del ponte di ferro, c'ero rimasto per un bel pezzo a guardare in giù. Quanto? Almeno 20 minuti. Allora sì che si sarebbe spaventato. Allora sì che avrebbe capito. Allora sì che... Psss! Mi svegliai di soprassalto, ma non aprii subito gli occhi. Psss! Udii di nuovo. Alzai lentamente il capo, girandolo a sinistra, contro sole. Chi mi chiamava? Otello non poteva essere. E allora? Mi trovavo circa a metà strada di quel tratto delle mura urbane, lungo su per giù 3 chilometri, che comincia dal punto dove corso Ercole I a Termine per finire a Porta San Benedetto, di fronte alla stazione. Il luogo è sempre stato particolarmente solitario. Lo era 30 anni fa e lo è ancora oggi, nonostante che a destra, specialmente, cioè dal lato della zona industriale, siano spuntate in pochi anni decine e decine di variopinte casette operaie, a paragone delle quali e delle ciminiere e dei capannoni che fanno loro da sfondo, il bruno, cespuglioso, selvaggio sperone semidiroccato del baluardo quattrocentesco appare di giorno in giorno più assurdo. Guardavo, cercavo, socchiudendo gli occhi al riverbero. Ai miei piedi, solo adesso me ne rendevo conto, le chiome dei nobili alberi, gonfie di luce meridiana come quelle di una foresta tropicale, si stendeva il barchetto del Duca, immenso, davvero sterminato, con al centro, mezzo nascoste nel verde, le torricelle e i pinnacoli della Magna Domus, e, delimitato lungo l'intero perimetro da un muro di cinta interrotto unicamente un quarto di chilometro più avanti per lasciar defluire il canale Panfilio. «Ehi, ma sei proprio anche cieco!» fece una voce allegra di ragazza. Dai capelli biondi, di quel biondo particolare striato di ciocche nordiche da fille au cheveux de lin, che era soltanto suo, riconobbi immediatamente Nicole Finzicontini. Si affacciava dal muro di cinta come da un davanzale, sporgendone con tutte le spalle e appoggiandovisi a braccia conserte. Sarà stata a non più di 25 metri di distanza. Mi osservava di sotto in su, da abbastanza vicino perché riuscissi a vederle gli occhi, che erano chiari, grandi, troppo grandi forse, allora, nel piccolo viso magro da bambina. «Che cosa fai lassù? Sono 10 minuti che sto a guardarti. E se dormivi e ti ho svegliato, scusami, e... condoglianze?» «Condoglianze? Come? Perché?» borbottai, sentendo che il viso mi si copriva di rossore. Mi ero tirato su. «Che ora è?» chiesi, alzando la voce. Dette un'occhiata all'orologino da polso. «Io faccio le 3», disse, con una graziosa smorfia della bocca. «E poi... immagino che avrai fame.» Ero disorientato. Dunque sapevano anche loro. Giunsi addirittura a pensare, per un momento, che avessero avuto la notizia della mia sparizione direttamente da mio padre o da mia madre, per telefono, come, certo, infinita altra gente. Ma fu Nicole stessa a rimettermi subito in carreggiata. «Sono stata al Guarini stamattina, con Alberto, a vedere i quadri. Ci sei rimasto male, eh? E tu? Sei stata promossa?» «Ancora non si sa. Forse aspettano a metter fuori i voti che abbiano finito anche tutti gli altri privatisti. Ma perché non scendi giù? Vieni più vicino, così faccio a meno di sgolarmi.» Era la prima volta che mi rivolgeva la parola. Di più, era la prima volta praticamente che la sentivo parlare. E fin da allora notai quanto la sua pronuncia assomigliasse a quella di Alberto. Parlavano ambedue nello stesso modo, lentamente, in genere, sottolineando certi vocaboli di poco rilievo, di cui essi soli sembravano conoscere il vero senso, il vero peso, e invece sorvolando bizzarramente su altri che uno avrebbe detto di importanza molto maggiore. La consideravano questa la loro vera lingua, la loro particolare, inimitabile, tutta privata deformazione dell'italiano. Ad essa davano perfino un nome, il Finzicontinico. Lasciandomi scivolare giù per il declivio erboso, mi accostai alla base del muro di cinta. Per quanto ci fosse ombra, un'ombra che sapeva acutamente di ortiche e di sterco, faceva più caldo laggiù. E adesso lei mi guardava dall'alto, la testa bionda al sole, tranquilla, come se il nostro non fosse stato un incontro casuale, assolutamente fortuito, ma come se, a partire magari da quando eravamo bambini piccoli, non si contassero nemmeno più le volte che ci eravamo dati convegno lì, in quel posto. «Esageri, però», disse. «Che cosa vuoi che conti avere una materia a ottobre?» Ma mi prendeva in giro, evidentemente, e un poco anche mi disprezzava. Era abbastanza normale, in fondo, che un fatto simile fosse capitato a un tipo come me, figlio di gente così comune, talmente assimilata, a un quasi goi, insomma. Che diritto avevo di far tante storie? «Credo che tu ti faccia delle idee un po' strane», risposi. «Sì?» sogghignò lei. «E allora spiegami, per favore, per quale ragione oggi non sei andato a casa a mangiare?» «Come lo sai?» mi sfuggì. «Sappiamo, sappiamo. Abbiamo anche noi i nostri informatori». Era stato Meldolesi, pensai. Non poteva essere stato che lui, e infatti non mi sbagliavo. Ma che cosa importava? D'un tratto m'ero accorto che la questione della bocciatura era diventata secondaria, una faccenda bambinesca che si sarebbe sistemata da sé. «Come fai?» chiesi, «a stare lassù. Sembri alla finestra». «Ho sotto i piedi la mia brava scala a pioli», rispose, scandendo le sillabe di «mia brava» nel suo solito orgoglioso modo. Di là dal muro si levò a questo punto un grosso latrato. Mi col girò il capo, gettando dietro la spalla sinistra un'occhiata piena di noia e di affetto insieme. Fece una boccaccia al cane, poi tornò a guardare me. «Uffa», sbuffò calma, «è Yor». «Di che razza è?» «È un danese. Ha un anno soltanto, ma pesa quasi un quintale. Mi tiene sempre dietro. Io spesso cerco di confondere le mie tracce, ma lui, dopo un poco, mi ritrova, sta sicuro. È terribile. Quindi, quasi di seguito, «Vuoi che ti faccia venire dentro?» aggiunse. «Se vuoi, ti insegno subito come devi fare». Sandro Lombardi ha letto Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.